Ieri sera sceglievo cosa avrei letto. Leggo tanto, in treno sempre, così viene sonno. Pensavo un saggio, poi ho messo il saggio, poi Martin Amis, e l'ho ficcato dentro, ma poi un amore di Buzzati, e nello zaino mi sono chiuso con la lampo. Stanotte non si respirava. La sensazione mi è nuova, è come se di colpo mi avveda esista vita durante il sonno, e quindi affannomi di meno, incespico fra libri e cavi. Ogni tanto tiro il fiato. Mi tiro su e prendo coraggio, mi dico meno pensi a ragioni e modi, meno tempo e ossigeno consumi. So che suona strano, l'ho imparato a mie spese. Il silenzio della notte è un segreto patto che ti lascia intatto solo se non hai pretese. E così provavo, ma duravo poco. Provaci tu se pensi sia facile. Poi d'improvviso ho trovato sonno appoggiando la testa su un cavo teso e alto. Scivolavo appena coi talloni, con le punte fra Amis e il saggio. Branchi di bestie da sotto il PC ululavano, ma non le sentivo. Ero ormai addormentato. La trance aveva obnubilato ogni senso, ringraziando Dio o qualche altra bestia che dà a questa sopravvivenza un senso. Ho rischiato di brutto, qualcuno ha detto, ma almeno son qui e se Dio vuole la notte è passata, ne sono fuori. Di nuovo si respira, il peggio è passato. Da gennaio a marzo è volata, sono le 6, sono sul treno. Finalmente si torna a respirare, il buio è sempre buio, ma meno lutto opaco. E la bestia, se Dio vuole, è passata. Non ho le cuffie, fatico l'idea di come prender sonno. Dallo zaino pesco un amore di Buzzati. Penso all'amore e mi distraggo. Guardo il casino dal finestrino, il casino che fa il niente del mattino. È uno dei casini più affascinanti. È elitario, sad antico, vagamente proletario e confusamente marxista. Condiviso da infelici lavoratori e quadri stressati, e poi da gente come me, gente con problemi per ricchi, gente col lusso dei tempi morti, gente eterna studente, gente che pensa e che scrive, gente che parla, gente che racconta il casino, gente pavida, gente che in fondo gode nell'osservare da lontano il casino. Prendo sonno, domani sarò certamente solo. Oggi la compagnia è quest'inutile tarlo che, per quanto stupido sia, almeno non mi lascia solo. Cosa non si fa per un abbraccio di mamma? E infine ho quest'ultima, che parla di una domanda, anche qui, posta a se stessi un po' troppo tardi. Ieri sera ho fatto l'amore, dopo ho fumato una sigaretta, e dopo la sigaretta sul balcone mi sono accorto che domani riparto. È lì che ho ripensato al giorno in cui decisi di non dormire più da papà, senza chiedermi come potesse rimanerci papà. Il resto è storia. A tratti un giorno, altri mi sembra una vita, ma sono passati 10 anni dal primo fantacalcio, 6 dall'università, da quando Trento era una città strana, spaventosa, del nord. 8 da quando Totti si è ritirato, 12 dalla prima volta che una ragazza mi ha mollato, 5 da quando ho capito che i nonni non sono infiniti. Le cose fuggono, i tempi si liquefanno. Non credere che rimanga la memoria. La memoria è ingiusta, la memoria sa dimenticare. D'altronde io, lo stesso io, campione mondiale di riflessione carpiata, lo dimostro. 7 anni ci ho messo a riflettere su come papà possa esserci rimasto quando gli dissi: va bene se da quest'estate rimango a dormire solo da mamma. Il resto, come detto, è storia. Perché decisi così, nemmeno lo ricordo. Probabilmente, come tutto, fu per amore. Se c'è ancora un pochettino di tempo, c'è ancora un pochettino di tempo, sono molto contento. C'è quest'ultima poesia che si intitola La palazzina alta e rosa, e c'è la mia unica idea di stabilità. In 24 anni, una palazzina alta e rosa è l'unica mia definizione di rapporto stabile. Per il resto, la natura del rapporto è per me familiare alla lotta, ad esercizi contrattuali, non solo alla presenza e alla cura, quanto più a una sorta di impegnativa alla prevaricazione dell'altro, di attimi da cogliere se non altrimenti, di ostile minaccia, di questi e mille altri modi per descriverla, l'instabilità. Così è che sono stato abituato per 24 anni. Ma poi, vedi tu, non metto piedi da 2-3 anni in quella palazzina scrostata, annerita dalle stagioni, alta e ormai solo nominalmente rosa, eppure oggi, in treno, Pure oggi in treno, quando ho pescato a pensare all'imperfetto, alla natura del rapporto, a quanto bene mi faccia volere bene a chi oggi stringo al petto, oggi, e a quella palazzina modesta, alta e rosa, che penso. Se mi impegno, ma in fondo nemmeno troppo, c'è ancora nonno sul balcone, c'è già nonna che si affretta per aprire il portone. Grazie mille. Cambio di microfono, facciamo uno switch, giusto per dare delle emozioni molto forti. Oh, che bello, avete visto il primo poeta, siete contenti? Ma chi l'avrebbe mai detto che la poesia viene fatta anche da persone vive? Vero? Che non vivono sui libri? Chi l'avrebbe mai detto? No, ma è esilarante, davvero, è esilarante? Poi magari c'è chi dice che sono morte persone dentro. Persone vive che hanno una vita, capisci? Vivere vita vissuta. Ma insomma ci proviamo. Dai, ci si prova sempre. Allora, facciamo adesso, uno stacchetto perché adesso stiamo recuperando le prossime persone. Abbiamo le prendiamo direttamente qualcosa dalla strada. Di diverso da portarvi sul palco adesso. Cos'è? Del rap. Ah, glielo dici così, volevo fare un indovinello. Ah, vabbè, ormai l'hai spoilerata. Mi spiace. Sapete cos'è il rap? Okay. Sì, vi piace il rap? Ottimo. Fantastico. Qualche rapper ascoltate. Non lo conosco. Ah, di sì. Mi sento estremamente vecchia. E non no, tu dimostralo con orgoglio. Prego? Shiva. Ok, questo l'ho già sentito. Ok, a posto. Ci siamo? Ci siamo. Siete carichi? Siamo carichi. Ok, lo vedo allora, pronto, li vedo pronti. Pronti con un bel applauso? Pronti, accogliete sul palco con un bel applauso, Tricky. Grazie, buona serata ai ragazzi di San Pio. Mi presento, mi chiamo Driki Jibril, vero nome, sono di origine senegalese, sono cresciuto a Napoli, da un bel po' che abito in Trentino, in Val di Non, a Cles. Vi presento un paio dei miei brani qua, che è a posto. Hey! Yeah! Tricky, hey, represent. Tricky, hey. Di milioni di gente le voglio fare, tornato sempre nei miei affari. Se la tira fra lascia stare, tirata a Napoli a pari. Con sogno di cali, la mia partenza risale. Oh, molti rivali, mio male, vuole stare nella calle. Nella meta ci sono sempre stato, niente rituale. Il talento niente mi è costato, non c'è mai uguale. Il talento niente mi è costato, niente alcol più rosato. Parlami tu il carrati, soldi, basta cazzate. Alza le gambe in alto, non fa karate. Che c'è un pago a rate, le prende tutte le sere, non sono passate. Cerchione, venite, bravo! Cerchione, scrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tutti. Ehi! Hey. Ehi! Hey. Ok! Ehi! Hey. non ce n'è due. Conta fino a tre, il beat lo spacco in quattro. Non prendi il cinque, se hai parlato. Dalle sei sono già fatto. Dovevo dormire, sono sceso. Non puste solo a peso, non siamo sorridenti qui. La mente è teso, fino alla fine il mio G non si è arreso. Da un bel po' che l'hanno preso, ok. Prendimi in giro, arriverò dal centro. Siamo tutti fuori ma con le mani dentro. Verranno in centro, mi hanno lasciato vivo. Guarda il mio accento, sai da dove arrivo. Vado con calma, perco tanta fretta. Non è per amore, è per la borsetta. Se te l'ha data è perché l'hai costretta. Non si entra in cucina senza la ricetta. Se cerchi il ritornello è stato rapito. Camminare sulla luna da noi è solo mito. Contraffare la mia storia come in Egitto. Certe cose non le dico, fra le e rido. Perché sono nero devo fare il doppio. È la metà di quello che valgo. Mi vogliono dubbi in ginocchio. Mi sono se pronto, fra ora salgo. Non vanno piano, spetta sulle mani, è solo talento. Senza freni, non vado lento. Non ti mento, col te non me la sento. Non vado piano, non rallento. Spetta sulle mani, è solo talento. Senza freni, non vado lento. Non ti mento, col te non me la sento. Dai, l'ultimo, l'ultimo, ragazzi. Sì, ci siamo, Montana, ragazzi, questo qua anche gasato vi voglio. Gasate! Tutti gasati! No. Wow. Campione! Ehi! What the fuck this shit? What the fuck this shit? In curvo! Come nel Montana, facciamo le bombe, everyday come da Osama. Osama. E negri street, pronti per la remontata, ci prendiamo tutto, se non ci lasciate nada. Non fare il furbo, armato come nel Montana. Facciamo le bombe, come da cosa. Usi melodia accusa, belle fra questi pussi. Vedo il mozzo la medusa, perché se la mia accusi. Se devi chiedere scusa, fresco con i miei bro son busi. Dalle in bocca me la accusi. C'è chi lo fa, c'è chi mente. Senza droga, senza rente. Fornire al presidente, sono un presidente. Il scopo è evidente, la vittoria è imminente. Il mio frate chiama, io rispondo presente. Stavo nel mio barrio, questi qui non mi davano l'orario. In campo come Mario, qui il rosso te lo dà il sicario. Quindi non fare il furbo, armato come nel Montana. Facciamo le bombe, everyday come la Osama. Prendo tutto, esci sotto la neve, ho venuto. Rubare questa scena, non è un furto. Super Enalotto, fanculo il muto. Con il glock puntato, sarai sordo e muto. Gimbiril, uso questo flow, poi te lo butto. Con il glock puntato, sarai sordo e muto. Gimbiril, uso questo flow, poi te lo butto. Non fare un furbo, furbo. Armato come nel Montana, facciamo le bombe, everyday come da Osama. E dei crispi, pronti per la remontada. Ci prendiamo tutto se non ci lasciate nada. Grazie, grazie a tutti ragazzi, grazie. Mi sono stra divertito, grazie. Grazie mille, grazie ragazzi. Grazie, grazie. Drake, mi chiamo Gibril. Drinking78, andate a seguire su Insta e ascoltate le mie canzoni, grazie. Big up, big up, big up. Che dire? Sono tornati. Si passa dalla poesia al rap come niente ormai di questi tempi. Beh, mi sembra che ve la siate goduta. Cosa mi dite? Ditemi, vi ha piaciuto l'esibizione? Vi è piaciuta? Meglio di tutto! Beh, dopo ne avremo altre. Ottimo. Beh, Drick ha fatto colpo, sì. E secondo me un sacco di follower molto giovani su Instagram. Allora, dopo questa fantastica... attenzione, abbiamo già il fandom. Bellissimo. Ottimo. Allora, dopo questa... bomba di energia. Questa bomba di energia. Partiamo con un'altra bomba di poesia. Esatto. Andiamo. Ma voi manterrete la stessa attenzione, sì, anche e lì. La stessa energia. Voglio vedere qualcuno, vibe. Qualche bimbo ballare sulla poesia del prossimo poeta. E allora lo chiamiamo sul palco. Lo chiamiamo sul palco, lui ha appoggiato la bimba. Bel applauso. Bel applauso. È carico. Vai, chiama sul palco. Allora chiamo sul palco con un applauso dal pubblico Francesco Azzarita. Niente poesia. Non so perché hanno detto che era una poesia. Quella che voglio portare è una lettera. È una lettera, letteralmente. Mai capitato di dover scrivere una lettera di referenza, una lettera d'ammissione per farvi ammettere da qualche parte? Vedo un sì. Sì, vedo un sì. Questa è una lettera che non ho scritto io, che ha scritto qualcun altro. Per farsi ammettere a un master. Fa così. Spettabile commissione. Dal momento in cui ho visto il vostro master di secondo livello in monitoring, modeling e management dei sistemi ambientali in Momase, all'Università di Barletta Andrea Trani, ho pensato, è lui. Dovete sapere che da quando ero al liceo, ma anche da prima, da quando ero piccolo, alle medie, ai miei nonni raccontavo sempre, da sempre, all'ostetrica, che mi ha estratto da mia madre, io l'ho guardata negli occhi e ho detto, ostetrica, io farò il master di secondo livello in monitoring, modeling e management dei sistemi ambientali in Momasa, all'Università di Barletta Andrea Trani. Meravigliosa commissione. Io parlo 4 lingue contemporaneamente. A 13 anni mi esprimevo fluentemente in inglese, a 14 traducevo dal siriano, a 15 comunicavo con le zanzare. Ora, splendida commissione, io credo che al vostro master di secondo livello in monitoring, modeling e management dei sistemi ambientali in Momasa sarebbe di grande aiuto qualcuno che sa parlare lo zanzarese. E poi io so anche programmare in Java, in C++, in Paint. Ho finito Snake su Nokia 3310, completo regolarmente la pista arcobaleno di Mario Kart senza cadere neanche una volta, cioè al più una volta, però vinco. Incredibile commissione. Il brainstorming delle mie soft skills è a naturally peak. Cioè io sono un mostro nel public speaking, ma anche nel private speaking, anche nello speaking a due, a tre. Voi nominate uno speaking e io ce l'ho. Lo speaking of the plus and of the minus, lo speaking at Vanvera. Io sono molto competente. Sono in particolar modo competent nel monitoring, nel modeling e nei sistemi ambientali. Ho lavorato per anni come sistema ambientale. Ho avuto i pidocchi a 7, a 11, a 13 anni con ottime recensioni. Fluorescente commissione. È da sempre un mio sogno venire ad abitare la città di Barletta Andrea Trani. Sento radici profondissime a Barletta Andrea Trani e credo di poter dare un significativo apporto alla comunità Barletta Tranese. Commissione delle mie brame, più bella del reame. Io credo sinceramente di essere il profilo migliore per il vostro master. E se nella vostra grazia mi accetterete, io non vedo l'ora di darvi 6.000 euro ed un mio orifizio a vostra discrezione per farmi innaffiare dalla vostra conoscenza in fatto di monitoring, di mastering, di modeling, della merda dei sistemi ambientali della Favembrado Momasa. Perché questo è il mio destino. Perché i miei genitori hanno sempre sognato che io facessi un lavoro con un nome che occupa 2 paragrafi e non significa niente. Mia amata commissione, Io ti prego di non lasciare che le mie parole restino graffi su un cuore di granito. Ti bacio con passione. Cordiali saluti. Hakuna Mumasa. Francesco. Quando finisci con una cuna momasa, io direi che è una gran bella fine. Esatto, questo ragazzi è quello che vi aspetta, un sacco di scrittura di questo tipo di lettere. Sì, quando dovrete chiedere la missione alle scuole elementari, dovete scrivere una lettera di raccomandazione. Esatto. Scrivete questa. Alle medie, alle superiori. Soprattutto alle medie. Mamma mia. È complicata la missione. Sono complicate. Beh, allora, ragazzi, allora c'è un altro mood di un altro cambio. Di mood. Sì, perché adesso avremo un artista circense, esatto, sul palco. No, non è vero? No, però abbiamo un altro rapper. Un altro rapper. Oh! Carichi, eh? Io chiedo a lui se è pronto e carico. Sei pronto e carico, ma sei pronto e carico? Sei pronto e carico? Come sempre, quindi un bel applauso per Rap Don. Buonasera ragazzi, mi chiamo Rap Don. Ok, hai spaccato Johnny Box. Grande Johnny, mi chiamo Rap Don, vengo dal Sierra Leone, Ovest Africa, controllate su Google Map, così almeno è una zona sempre verde vicino all'Atlantico. Non abbiamo tempo comunque, DJ, let's go, andiamo. Yeah, I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, ooh, nothing. I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, ooh, nothing. I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, ooh, nothing. Brr. Yeah. Rap don't big house with a stack of novista, with a master, with a chicha, we get the rap game every day and night, to get from the rap game, get from the rap fame. Clap your hands, let me hear your flow. My flow so bad when I speak the flow, my nigga. Before big ass make the beats, I ready kill it. Everybody know I'm the real rapper. We cross border, we change trend to rap game, totally another order. I nigga flow, yeah nigga blow. What the only talk about artists? Rap down with the baddest. We get the rap so strong every day and night. So seek from the time, we'll get from the rear. Six from the one that days, everything the world's wanna get from the land today. I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, ooh, nothing. I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, ooh, nothing. I'm a G from Trento, nigga, you know me what, we come for takeover, so stop me talk about, yeah. Back to the next one, Mr. DJ, let's go. Ci siamo ragazzi, back to the next one DJ. Back to the next one, questa canzone si chiama Jealous, la gelosia è ovunque comunque, quindi noi artisti pensiamo a scrivere le cose e passiamo i messaggi per le gente. Yeah. Are you ready? Siete pronti? Yeah. I can make rap simple if you want it. I can make rap sweet and you know this. Make way from the G when I'm coming. What the F you talk about? Please nigga tell me. Okay, I can hear you louder, but just wait for my answer. I know how to rap from my back to my beat, so everybody let's go. Yeah, I'm gonna say see yo. I know to swap in English and Creole. One day you will pay for your labo. Everybody know you the blah blah blah. Anything you talk, nah nah nah nah. Even big ass know you the blah blah blah. Make way for the two G's. Rap on there, so on the same shit and then them always sick when I see you with the white chick gel. Them even vex when they see you with the best white jealous. Them always sad when they see you with the best white jealous. Yeah, okay. One, every day and night I come from a tick store. Jealous, jealous in the building when it gets one. One for the money, two for the show. When you get the we are rocking game, let's go. Everything's fun to do, I don't know. It's a real time of God from the whole go. One for you, one for me. Two for the G, step on my stores, it's not to me. This is how we do, comes to reality. You get from the habit and you get from the scavity. Everybody know we swag from the end. We gone from the back and I stick from train to. The things from the least go. Even level one big from the least though. I wanna take you, I wanna get the one go. Taking all my flies and it's time when I call me jealous. If you want from the jealous team, everything when you get from the real team. My team is here, my team is back. Every day and night you get from the real respect. Jealous. Them always vex when they see with the best right. Jealous. Them even vex when they see with the best right. Back to the next one, DJ. Back to the next one. Grande, grande raga. Grande, grande. Avete spaccato come candeggina negli occhi. Andiamo avanti. Shout out to Sindaco in the building. Hai spaccato quest'anno, Sindaco era ripetere, inshallah. Hai fatto tante bombe. Yeah. Yeah. I'm the rap star, hope you hear yo. I'm the rap star, listen to my seat flow. I'm the rap star, I'm a gangster. I'm the rap star, yeah, nigga better know. I'm the rap star, listen to my seat flow. I'm the rap star, listen to my seat flow. I'm the rap star, I'm a gangster. I'm the rap star, I'm not a pop star. But I get it with your rap, we gon' make you feel like gangster. Just call me if you want it. Rap down the key, not gonna want it. No time to waste, just do the race. Hip hop culture, just off the base. You know, ooh, what time it is. Rap don't come, you see my face. From the back to the top, everything where we get, we never fucked up, just get up. Beast on a pop, pro mic check, one, two, let's go. Oh, everywhere the rap stop. Everything where you get, I don't know. It's just bootleg dog, so just go. Bello come closer, what I mean. Backside, so no heavy me. I'm the rap star, yeah, nigga better know. I'm the rap star, hope you hear yo. I'm the rap star, listen to my seat flow. I'm the rap star, I'm the gangster. I'm the rap star, yeah, nigga better know. I'm the rap star, hope you hear yo. I'm the rap star, listen to my seat flow. I'm the rap star, I'm the gangster. Shout out to Madre di Taio, il mio grandioso amico di Taio, italiano. Ascoltate. Hai spaccato come candeggina negli occhi, grande! Sento forte il mio nome, il rap è la mia voce, la mia benedizione. Grazie mille ragazzi, grazie mille, grazie di tutto. Noi ci vediamo sempre a Trento. Grazie, grazie, grazie. E buonasera a tutti. Avete spaccato, siete il numero 5. Sinacqua è 1, poi Moria 2, Fini 3, noi siamo 5. Beh, che dire? Entusiasti anche per questo, per questa esibizione? Fatevi sentire? Ok, ottimo. Questo. No? Qualcuno ha detto di no? Allora qui sul palco adesso a fare dissing. Preferisci la poesia? Oh. Allora. Per i palati più sofisticati, immagino. Ributtiamo dentro un po' di poesia. Esatto. A voi piace la poesia, non l'abbiamo capito. Vi piace? Prego? Ma no, ditemi, ditemi, è un open mic, è aperto anche per voi il microfono, ditemi. Vogliamo Parigi. Non era nel budget. Ah, scusate, cioè. Non era nel budget. Noi una una cifra ci abbiamo, la dobbiamo usare in cavi, presentazione. E birre, ma basta. Cavi presentazione. Niente ospiti esterni. Abbiamo. Però insomma, avete sentito dei talenti in erba? Magari un giorno Driki si ricorderà questa serata a San Pio Decimo. Esatto. E ci indicherà una song. Di averli visti prima del grande successo. Ricordatevi di questo. È sempre così che si potevate dire io c'ero. Esatto. E a proposito di io c'ero. il prossimo performer è già sul palco. Così, pronto. Così, pronto. Bisogna essere pronti nella vita. Quindi, così, a caso, senza senso, tutto ad un tratto. Un bel applauso per... Un bel applauso per Davide. Allora, io ringrazio Beatrice di avermi messo dopo queste bombe di energia, perché ovviamente adesso arriverò con della poesia, quindi l'energia è un po' diversa. Questa poesia parla di un argomento che è l'amore, ma proiettato un po' nel futuro. Il nostro futuro si prospetta anche un po' drammatico a livello ambientale, però l'amore vince sempre. E quindi ho deciso di fare questa poesia che si chiama Eva, mia adorata Eva. Io, allora, Eva, mia adorata Eva, sei la bellezza personificata. Sei calda come i poli, bollente come le Alpi, ardi come Rodi, come gli incendi perpetui che da mesi infiammano lo Stelvio e anche quando ci circonda il fumo nero tossico mortale delle fabbriche della Kinder, tu illumini ogni angolo con il tuo amore infuocato. ChatGPT mi ha detto che negli incendi muori per collasso polmonare, perché gli alveoli vanno letteralmente a fuoco e bruciano da quanto l'aria è calda e sono come cotolette nella friggitrice elettrica e si cotolettano nelle fiamme come tu cotoletti Eva, che sono cotto di te. Eva mia impanata Eva, mi manca il tuo dolce sospiro lievemente rantolante come il motore di un Deutz Far Agrotron 6190 Warrior, sì, è il trattore agricolo largo 6 metri alto 4. È il tuo spirito leggero e luminoso che mi fa dimenticare tutti i pensieri grigi. Sei la luce che mi colpisce gli occhi offuscati e mi rifà lacrimare, portando sollievo all'inevitabile secchezza bulbare derivata dal monossido di zolfo, dal biossido di carbonio, dal radon, dal benzene. Sei il collirio che mi manda in delirio, oh Eva, mia oftalmica Eva. Quando i nostri occhi si incrociano, l'universo si espande dentro le tue sclere eburne. Oddio, eburne, direi giallognole, oddio Eva, sono effettivamente molto gialli quegli occhi, oh Eva mia itterica Eva. Nella tua sclera mi sento come se fossi in una dimensione parallela dove tutto è giallo, come dentro un cheeseburger, il migliore della terra, bello, filante, pieno di microplastiche, al punto giusto da diventare materassi in memory foam. Oh Eva mia plastificata Eva, fatti baciare con passione il tubo della maschera antigas dotazione militare che non togli mai. Io scintillo, lo scintillio del cromo mi manda ai matti e come miagola il filtro ogni rantolo mi infiamma i lombi. Anzi, te lo strappo via, voglio vedere le provocanti curve delle tue labbra dietro al boccaglio da sub e la mascherina chirurgica che porti eroticamente un po' sotto il naso come vezzo modaiolo XX secolo. Oh Eva, mia stratificata Eva, e è il filtro del Dyson quello che vedo spuntare dalle tue labbra o sei felice di vedermi? Ah, se potessi qui e ora ti possiederei, o meglio, non proprio qui, non proprio ora. Fra poco, sono le 8 di mattina, fra poco ci saranno 56 gradi all'ombra e la marea raggiungerà la sopraelevata del Brennero. Quindi fuggiamo, cerchiamo asilo nelle piantagioni di avocado sul Bondone o tra i filari di ananas delle Dolomiti. Che c'è, Eva? Perché boccheggi? Ah, il respiratore! Tieni, giusto in tempo per prendere una bella boccata d'aria. Grazie. Ho un po' di tempo. Ce l'ho un po' di tempo. Ok, trattiamo di argomenti importanti. Allora, dato che siamo un pubblico appassionato di politica, c'è un'altra poesia che ho scritto più relativa ha una cosa molto importante che è da fare quando si fa politica, che è protestare, che è fare manifestazioni. E questa poesia è un, riguarda il potere delle manifestazioni in questo nostro secolo, dove effettivamente il denaro è anche qualcosa di estremamente importante. Quindi questa poesia si chiama Riunione conclusiva di Holding. Nella vita di un amministratore delegato arriva prima o poi quel momento un po' sfigato di dover ricordare, perdonare e dimenticare, di doversi licenziare, insomma. Il mio mandato in CDA è in conclusione, termina il mio operato e dunque è tempo che io sia confessato. Vedete, quando avete occupato Wall Street, noi abbiamo esultato. La somma dell'età nel CDA arriva a 420 anni, ma giuro che festeggiammo come fossimo ventenni. Abbiamo seguito con passione il corteo. Ogni vetrina rotta ci ha mandato in zolluchero. E quando è arrivata la polizia coi manganelli, beh, quello mua, è stato un tocco di grandissimo gusto. Abbiamo usato le scene come pubblicità d'effetto per vendere bombolette spray, costumi di carnevali, giocattoli per ogni tipo di divertimento in un estro di creatività. Ci abbiamo pure fatto un docufilm con Sorrentino che ha sbancato il botteghino. Quando ho visto quel picco di fatturato io piansi come un bambino. E quando quella bimbetta svedese ha solcato l'oceano con la sua barchetta, c'è stata un'onda di eccitazione qua nel CDA che davvero per gli infarti si è rischiato davvero di falciarne metà. Quel suo discorsetto alla TV a redarguir le potenze ha davvero estinto taumaturgicamente tutte le nostre impotenze. Ci abbiamo prodotto una piacevole hit estiva che ha riempito le discoteche, suonato nelle spiagge, nei supermercati e anche nelle fabbriche, perché su via dobbiamo un po' rallegrargli gli impiegati. Tra remix, concerti, diritti d'autore abbiamo fatto così tanto cash flow che abbiamo esclamato sconcezze tipo corbezzoli, e c'è davvero stato qualcuno che non ha resistito dal titillarsi i capezzoli. E dopo, ci avete regalato le rivoluzionarie manifestazioni di protesta per il futuro del pianeta, un Friday, per le persone nere in febbraio, per i gay, la parità dei sessi, un intero mese. Io in CDA non ho mai visto tanti di quegli amplessi. Abbiamo venduto vagonate di gadget e magliette, usa e gette riciclate per gli ecologisti, cazzutissime per le femministe, nere per gli antirazzisti, a prezzi abbordabili per gli anarchici più estremisti, accendini antifasciste, borse griffate per i benestanti antispecisti, assorbenti tra squir femministi, gli arcobaleni per i gay, ovviamente tantissimi unicorni. Avremmo potuto fare soldi per giorni. E se di questi tempi ci fosse il coraggio di fare le cose in grande, una nuova rivoluzione francese, una piazza Tiananmen, una rivoluzione cubana, una primavera araba, un'indipendenza americana, vi venderemo tante di quelle stronzate, ci faremo interi parchi divertimenti per ricordare gli spiriti dei ribelli, accompagnati da frappè a prezzi strutturalmente convenienti. Questo io confesso a voi e a me stesso. Perché è una cosa che sorprende. La vostra rivoluzione non cambia nulla, ma non sapete quanto cazzo vende. Grazie. Allora, dopo questa poesia impegnata, è impegnativa, vi portiamo ancora della musica. Oh, un po' di musica? In formato diverso, piallati, però. Sì. Abbiamo della musica dal vivo, abbiamo Gianmaria che suona la sua chitarra e poi verrà accompagnato da Teresa, una sua amica, che però porterà lui sul palco. Quindi io per ora mi limito a presentare sul palco Gianmaria, giusto? Un applauso. Bell'applauso! Grazie Davide! sono qua perché mi hanno detto vabbè, dobbiamo riempire il tempo e quindi perché non sacrificarmi andando sul palco portando una poesia che ho letto una volta sola e che parla del calcio. Abbiamo fan del calcio qua? Fan del calcio? Fan del calcio? Ok, apposta, perfetto. Domanda, a chi piace il calcio è forzato ad apprezzare il calcio perché qualcuno in famiglia apprezza il calcio? Chi è che è obbligato? Cioè, io non me lo voglio guardare, non me la voglio guardare la partita la domenica, io voglio dormire la domenica, ma mi tocca guardare la partita. C'è qualcuno? Alle 7 vanno. Non tanto gente, però il resto in Italia, grazie, grazie. Voi mi contate, perfetto, perfetto. E ora, di solito io queste cose non le faccio mai, cioè non chiedo mai. Mi sembra giusto, onestamente, che ci sia del dissenso nei confronti della poesia portata sul palco. È corretto. Cioè, siamo qua a tediarvi ancora per un po', ma va bene lo stesso. Cioè, noi non ci spaventiamo, andiamo avanti imperterriti. Adesso, un giorno, penserete a questa tipa, ha fatto la poesia, chissà dov'è adesso, probabilmente fa ancora la commessa. Ora, mi fate una cortesia, chi è qua davanti, e provate a farmi una cosa che sembra tipo quel brusio allo stadio prima che parta la telecronaca. È tipo, una cosa così, cioè. Questo, esatto, grazie, perfetto. Vai, fatemelo sentire. Dentro di me, senza un vero e proprio preavviso, si gioca di tanto in tanto un derby mentale. Su condizioni di campo discutibili si sfidano loro, l'FC Intercalcio, Federazione Cerebrale Interesse per il Calcio e l'FC Calcio Dis, frega cazzi il calcio, mi disgusta. Fino ad ora la formazione capitanata dal mio disgusto detiene il numero maggiore di vittorie. La difesa vede pilastri come misoginia e razzismo, spesso decisivi nelle istanze in cui l'interesse sembra acquistare vantaggio. Giocano anche ore di educazione fisica a scuola e cori ultras a centrocalpo. Ma vediamo ora la formazione avversaria, uno spregiudicato modulo diamante per l'FC Interesse che non vede una vittoria dal mio ultimo rewatch di Ted Lasso. È una serie su Apple TV, se non la conoscete andate a vederla, è molto carina, grazie. La squadra ha disperatamente bisogno di portare a casa un successo per rimanere rilevante. Gioca una difesa volubile, ma da non sottovalutare. In ordine troviamo la docuserie in cui Ryan Reynolds e Rob McElhenney di It's Always Sunny in Philadelphia aiutano una squadra gallese a risollevarsi, questa invece è su Disney Plus. La cotta che ho avuto per Julio Cesar, con a fianco quella per Wesley Snyder, e il baffo di Jason Sudeikis, di nuovo andate a vedervi, Lasso, grazie. A centrocampo si stagliano solide alcune esperienze di vita formative, mondiali 2006, europei 2021, il triplete nero-azzurro, una tattica consolidata quella di questi tre giocatori che unisce un senso di tepore nostalgico alla possibilità di urlare liberamente di gioia. Troviamo in alto le due punte. A destra, mio nonno Umberto, con il quale è impossibile intraprendere una conversazione che duri più di 5 minuti se non parliamo dell'andamento dell'Inter, quello vero, in questo caso, in campionato. A sinistra, da buon compagno, è uno dei miei migliori amici che controlla incessantemente il telefono per vedere i risultati del fantacalcio. Ma eccolo, nel ruolo del regista, lui, mio padre. Mio padre è l'arbitro amatoriale che, per amore del pallone, va in posti dimenticati da ogni divinità come Polaveno e Maclodio, che sono posti veri nella, nella provincia del Bresciano, se non mi sbaglio. Lui permette a squadre composte da bestemmiatori comuni, di cui si è rotto il crociato, che se no ero in Serie A, pota, di giocare. Spesso remunerato in rimborsi, benzina e spicci, mio padre continua imperterrito ad amare il calcio e la possibilità di arbitrarlo, di goderselo da spettatore, di viverselo da tifoso. Importa, da entrambe le parti, la cultura calcistica italiana. A volte dal fischio d'inizio la partita non dura altro che una frazione di secondo, ma tornando dal lavoro, fra le strade deserte di lunedì sera, passato a fare l'inventario, sentendo soltanto l'eco della telecronaca nelle vie di Trento, decido di sedermi a un tavolino in plastica e guardare gli ultimi minuti di Croazia e Italia. Questo può significare solo una cosa: l'interesse ha segnato. Recupera il disgusto grazie a un commento di cattivo gusto da parte di uno dei tifosi presenti al bar. Ma ecco che la tattica nostalgica funziona un'altra volta e un messaggio di mio padre porta in avanti la squadra sfavorita, perché se è un uomo a cui voglio un bene dell'anima, a cui insultano la madre ogni partita, continua a amare questo gioco, forse un motivo c'è. Stai a vedere che alla fine il calcio è davvero un po' come la vita, un gioco divertente rovinato dalle teste di cazzo. E dopo i tre fischi della mia coscienza, come di consueto, due parole dall'uomo. Due parole dall'uomo che continua a condurre la mia partita con il calcio. In collegamento dal campo, mio padre. Papà, dopo una vittoria dell'interesse per tua figlia per il calcio, un commento sul perché continui ad amare questo sport? Beh, perché regala emozioni, crea aggregazione ed è legato al periodo più sereno, quello dell'infanzia. I campetti improvvisati, le partite infinite sotto il sole cocente, le ginocchia sbucciate, ecco, direi che il calcio, per chi ancora lo vive da sognatore, è l'estasi dell'irrazionalità. Parole molto sentite, copiate da un messaggio di WhatsApp. Grazie papà, se all'alba dei 50 anni il calcio ti fa sentire ancora un bambino, forse la ragione per cui l'interesse ogni tanto vince ancora è perché posso sentirmi bambina con te. Dal derby mentale è tutto, vieni nello studio. Per la fine dell'open mic. Anche perché a quest'ora a Trento si inizia già ad andare a dormire. È tardi, me ne rendo conto. Manca mezz'ora all'ora del dormire qua. Avete assolutamente ragione. Per questo, senza ulteriori indugi, prima di salutarvi vi portiamo sul palco l'ultimo performer. Che è? Bass! Ciao a tutti, questa canzone si intitola The Partisan di Leonard Cohen. C'è pochissima fila? When the poor across the border, I was cashing to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them run with me. An old woman gave a shatter, it was hidden in the garret when the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. They will come from the shadow. Les Allemands étaient chez moi. Il me dirait ciné toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé ce fois de nom. J'ai perdu femme et enfance, mais je t'en l'ami. J'ai la France entière. Un billard dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. L'île mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. They will come from the shadow. Grazie. Bravo. E ora sale sul palco la mia cara amica Teresa a cantare una canzone, anche questa è una cover, cioè, che è di Pom, questa cantautrice francese che tra l'altro mi ha fatto conoscere proprio lei e che la ringrazierò per sempre per questa scoperta, e si chiama, lo dirà lei come si chiama. Che mi terrorizza di più in realtà sono i bambini, perché i bambini non mentono e quindi sono terrorizzata dai bambini. Je peux te dire. jeteremo encore, oh je t'aime encore, je t'aime la quota anziani, quindi ecco, diciamo, nominiamo solo quota grigia e davvero anziano tiro fuori il mio device. Le poesie scritte ancora sulla carta. Proverò a rubarvi poco tempo, ma non sarà divertente. Per me la poesia è importante, scrivo da quando avevo 14 anni, su fogli, su tovaglioli, ovunque. Non le ho mai lette al pubblico, quindi per me stasera diciamo che è un debutto. Non scrivo a caso, non scrivo per me. Scrivo per chi mi emoziona. Quello che vi leggerò è un messaggio mandato a un'amica speciale, prima di intraprendere un viaggio importante che ancora sta facendo. Sono un po' consigli di viaggio, un abbraccio, una carezza sulla testa. Sono poche parole che possono accompagnare un viandante. Si chiama pensiero ramingo. Sapete chi è ramingo? Il ramingo è chi liberamente vaga per la terra cercando niente, solo per l'esperienza di farlo. E dice così. Prendi le foglie dal ramo d'argento, togli le gocce di rugiada dal vento, sigilla i pensieri in un guscio di luce e lascia che il cielo ti insegna la pace. Forma disegni di pensieri sfuggenti, cogli la neve e la nebbia dei tempi, lascia che il tempo ti sfugge felice, ma tieni nel tuo cuore quello che tu chiami pace. Scegli la strada che il cuore ha pensato, scegli i colori con gli occhi e col palato. E se nel frattempo è giunta primavera, dipingi il sole con le mani di cera. Il cielo di notte è pieno di fiori, ricordi di luce e di tempi migliori. Ma dentro gli occhi la luce rimane rinchiusa in un battito, un gesto, un legame. Grazie. Ok, questo va. Fantastico! Siamo giunti alla conclusione. Ma chi l'avrebbe mai detto? L'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. Vi siete fatti una serata di poesia, musica, rap e tutto il sabato sera a San Pio X. Io direi un bel applauso. Un bel applauso all'organizzazione dell'evento. Infatti ringraziamo tutto il quartiere di San Pio X per averci tutti ospitato e accolto. Chi ha organizzato, chi ha partecipato. Tutti e tutti. Anche solo a bazzicare in giro ogni tanto faceva un sì con la testa perché ha visto che c'era un evento sul palco. Apprezziamo anche voi. Sì, Will Tux. Will Tux ovviamente, Will Tux Tass. Esatto. Che ci ha dato la possibilità di essere qua con voi. Io ringrazio Beatrice. E io bel applauso Dante. A Beatrice che ha portato avanti questa presentazione. E un applauso anche a Davide, il mio co-host ormai della vita. Il co-host. E che dire? Andate in pace! Andate in pace, godetevi l'evento! Godetevi l'evento, godetevi la serata perché fra poco ci sarà un sacco di musica ancora per divertirsi, immagino ci sarà cibo, mangiate, bevete e divertitevi e godetevela. E godetevela. Grazie a tutti davvero. Buona serata, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie.